profit. Tanto ti hanno fatto bocca ad Eba. Ho visto che è giù dalle parti vostre, il Romano ha fatto un po' di danno, così. Un casino ha fatto, ha strippato, un casino. Guarda se mi copia verso a 27.105, bene. Allora vedi, a fondo scala e la radio è limpidissima, è perfetta. Cioè, una cartolina. Quindi va bene questa qua, ci mancherebbe. Ah, Robert, come mi copri con questa? Vabbè, qua stiamo parlando di altri giocattoli. Comunque vai tranquillo, questa 2705.0 è, cioè sei perfetto, è, la radio è una cartolina, anche il segnale di brutto, a fondo scala, di brutto. Invece l'altro arrivavi Santiago 8 e ti sentivo male, aumentavo il segnale, se ti mettevo a 2700 aumentavo il segnale e la radio era pulitissima. Strano, può darsi che si sia disallineata, questo Saturn, può darsi che si sia disallineato. Però tu, Robert, non ti sei accorto di niente? No, diciamo, non ci ho fatto caso, ti ascoltavo. Adesso Mari, spostandomi, come mi ha detto Eugenio, un pochettino leggero miglioramento l'ho visto, però ti ascoltavo bene lo stesso. Mari, da 10, Mari, ti ascoltavo a 8 come qualità di coso, di, come diciamo, qualità di emissione, ma ci sarebbe voluto un sacco di gente quell'emissione che avevi. Sì. E va bene, adesso sto andando con 20 watt, tranquillo. Dai Eugenio. Ehi, dai, io vi lascio ragazzi, vi auguro una buona nottata, un buon continuo di questo, ci sentiamo domani ragazzi, ciao e buonanotte, ciao. Ciao Eugenio, ciao, buonanotte, grazie per essere andato a salutare, sempre gentilissimo oggi. Buonanotte a te, QRA, e buona giornata per domani. Vai, Ruby. Ciao, amico mio, tutto a posto, dai, ci sentiamo. Buonanotte e buon tutto. Ehi, tutto contraccambiato a 380. Ciao, ragazzi, buona 80. Capito, Robe, come sono quella, come quella roba lì. Che deve prendere, deve lavorare in una certa maniera, perché fin quando si parla di ciare, quella roba lì, allora è un altro conto. Però quelli lì sono autoparlanti che suonano, ma hanno un loro range funzionale, se li togli hanno un loro range e dei loro parametri meccanici ed elettrici. E se li togli solo una di queste, diciamo, di questi settaggi che hanno fatto loro, case costruttrici, quelli autoparlanti diventano schifezze. Quindi io ti consiglio di magari aspettare, cercare qualcosa, ti ripeto, tipo Klipsch, tanto si trovano Klipsch da 9 pollici, ne trovi quanti ne vuoi. Poi metti il test, guardi il punto di crossover e ti dice anche gli uomo che lavorano robe con le casse. Sì, ho visto le specifiche. Comunque ti ho mandato le T84, T840, ti ho mandato le fotografie delle casse che ho io. Ne stanno vendendo intorno ai 600, 700 euro, 500 euro. E basta. C'è questa ditta americana che le vende, c'è scritto uguali alla COSO, al modello diciamo originale della Boston, però ho paura di acquistarle perché non si capisce niente, è una ditta non c'è riferimento. Ho detto poi Mari, siccome se li stanno facendo anche pagare quegli altoparlanti, ho detto Mari, chissà quella dogana quanto ti vengono a costare, mi deve trovare qualcuno che ce li abbia quelle casse. Perché componenti da 9 pollici, come hai detto tu, è una cosa un po' rara, le Diana Line ce li potrebbero avere, le Eclipse sinceramente non le ho mai viste, Eclipse con le nuove forse, le Eclipse con le nuove generazioni parli. Sì, le Eclipse nuova generazione parlo, Robert. Quelle sono 9 pollici, poi c'è una serie che monta 16 e 65, proprio misure balorde che non stanno nel cielo né in terra, ma roba fatta diciamo roba americana fatta, che tu se vuoi mantenere quel calibro su quel diffusore devi comprare i pezzi di ricambio per forza lavoro, e te li fanno pagare una barca di soldi veramente. ne sono, trova i driver di quelle, trova le trombe di quelle di quegli autoparlanti a vedere quanto ti costano. Quelle sono neodimio. Le trombe di diciamo da parte dei settori alti, Twitter, detto proprio parole povere, quelli sono neodimio, robe. Vai e compralo. No, no, ma ho visto, ma poi c'erano delle casse di componentistica di, fatte di quelle misure da 9 pollici, ho messo poi woofer 9 pollici e c'erano dei macchine a 800 euro, 900 euro, 1100 euro, a te lo compri un altoparlante, vabbè se non stiamo parlando di cose super di qualità, però cacchio, ho detto non spendo 600 euro, quello che costava meno di questo altoparlante era 460 euro, da 9 pollici, non so se li faceva la Beima o qualcosa del genere, dei marchi importanti, dai. Perché sono fuori serie, dai, sono delle cose fuori mercato, perché da 8 pollici te li tirano a faccia, da 10 pollici non ne parliamo, però 10 pollici anche volendoli mettere modificando il crossover non ci stanno. No, Robe, poi qua la verità le vai a disadattare tutto, perché poi se per esempio tu a quel, se quel crossover è stato tagliato per lavorare a un ohm e li metti già un woofer che gira a 4-8 ohm, mandi in conflitto tutto e non, guarda, non ne togli più piede, poi sì te le ascolti ma non te le ascolti come devono essere loro, diciamo, originali, quindi tanto vale che aspetti e da adesso vedo un po' se sei interessato a, se sei interessato alla riparazione di quegli autoparlanti. Tanto non li trovo subito, però se dovessi sentire qualcuno che ha qualche autoparlante serio da 9 pollici, io te lo faccio sapere, guarda che c'è questo che ce li ha, sono autoparlanti, logicamente devono essere buoni e in buone condizioni, io te lo faccio sapere, poi se ti interessa, se ti dovesse interessare li prendi, se non ti interessano, ciccia, no, non si fa. Però a me a volte mi capita anche queste occasioni qua di prendere, ti ripeto, GBL non è che fa solo nel settore FI e 9 pollici, fa anche nel settore del PA professionale, quindi sono proprio strani loro e non ho capito questa cosa. Comunque, Robè, io devo chiudere le trasmissioni perché io devo fare delle cose, devo fare delle cose qua, non qua, ma devo andare in garage. Hai visto come c'ho garage, c'ho sotto prova un amplificatorino, devo vedere un pochino come sta comportando quella ventola. Vai di nuovo. Grazie Gavi, gentilissimo, sempre un piacere parlarti, fai buon lavoro, fai tutto, anche io adesso vado dall'altro reparto, reparto letto, dai, anche se mi è ancora presto per dormire, però ci sono da presto qua in radio. E vai, con Mari continuiamo la conversazione un altro momento, se senti qualcosa di 9 pollici, perché era un peccato, come hai detto tu, fargli questa mascherina di riduzione e metterci questi Fostex, anche se sono altoparlanti che costano un sacco di soldi, sono dei bellissimi cuni, però come stai dicendo tu è un peccato rovinare dalle casse, che tra l'altro ti posso dire, tu le conosci forse anche più di me, perché ce le hai, hanno un bellissimo suono, ho sentito i medi e gli acuti, veramente pulito, neutro, cristallini erano tutte le frequenze medie ed acute, e poi sporcare tutto magari mettendogli un woofer che non è adatto è una cagata, lasciamo perdere. Ok Gavi, buon tutto, buona serata e sentici presto, ciao, ti ho mandato le foto di quelle casse, magari sono tipo le tue. Sì, oltre telefono caricando in cucina, roba. Adesso come spengo tutto le guardo senz'altro. Grazie per essere entrato. Quindi ultima conferma, tu mi dici che questa qua va meglio di quella, cioè questa qua vabbè che sia più allineata non c'è ombra di dubbio. Però era molto sforzata. Ma guarda Gavi, non per dire quello che ha detto Eugenio, molte volte dipende anche la radio, perché era capitato l'altra volta a me, eravamo su un ponte in VHF, mi ha detto ma ti sento male, era settata, c'aveva dei filtri stretti, io questo 440 c'ha i filtri un pochettino larghi per cui non me ne sono quasi accorto, per avere proprio la certezza mi sono spostato, dicevo ma stiamo parlando di cose impercettibili, lui probabilmente c'ha un filtro FM un po' più stretto del mio, e mai se ne rende conto, se no non se ne accorge nessuno, con un semplice baracchino o con una radio settata diversamente non te ne accorgi. Io ti ascoltavo bene, magari certo Eugenio ci va meglio con un'altra radio, stiamo parlando di cose diverse, però non ti preoccupare, sono tolleranze previste, soprattutto considerando il tipo di apparato che stavi. Se fosse stato magari un altro tipo di apparato ti avrei detto no, vediamo un pochettino. Infatti non mi sono neanche permesso di dire esci che attacco gli altri due radio più serie per verificare, ma ti ripeto, da parte mia stava andando benino, non benino, bene, che cacchio benino. Vabbè, oggi ti lascio andare, stammi bene, buon tutto, ciao ciao. Ehi, ciao Robert, grazie ancora, buonanotte e buona giornata per domani, quando vuoi, già sono, vabbè, domani non ci sono, però quando ti vuoi fare quattro chiacchiere la sera, già mi trovi qua dopo cena. Ciao Robè, ancora buonanotte.